Credo che sia una questione da valutare con grande attenzione e che sia un disegno di legge rilevante, perché parla sostanzialmente di una propaganda che sconfina nell'istigazione a delinquere. Personalmente sono sempre stato contrario ad una legge che punisse il reato di negazionismo, perché nella valutazione storica le opinioni possono essere molto diverse e si rischia di stabilire in termini culturali una verità ufficiale e reificare tutte le altre. Ma qui parliamo di una cosa completamente diversa. Qui parliamo di una propaganda fascista che è in se stessa istigazione a delinquere, in quanto il fascismo è un delitto per la nostra democrazia, è il reato sommo, è una colpa grave, inammissibile. Perché l'idea di democrazia che si è disegnata dopo la Seconda Guerra Mondiale e che chiamiamo democrazia antifascista è tale non soltanto perché ha sconfitto il fascismo, ma perché ha affrontato una serie di nodi che il fascismo aveva messo in luce, per esempio quella del razzismo, per esempio quella della non eguaglianza tra gli uomini dal punto di vista sociale e politico, per esempio quella della volontà di potenza della nazione che poteva sopraffare militarmente altre nazioni, eccetera, eccetera. La democrazia non è la fine della storia, non è quello stato raggiunto il quale tutto è lecito perché ogni libertà è ammessa. Ogni libertà ha un proprio limite quando rischia di creare prevaricazione, sopraffazione. Allora, se io dico, facciamo il caso notissimo in questi giorni del Lido di Chioggia fascista, se io dico che se uno si comporta in un certo modo deve essere liquidato a manganellate, istigo a farsi giustizia da soli per le idee, che è un reato in democrazia. Se io dico che una certa categoria di persone sono a priori persone colpevoli di qualcosa o inferiori o nemiche, commetto un reato, perché è un'istigazione a colpire gruppi umani al di fuori di ogni responsabilità individuale e dimostrata, come vuole la giustizia. Se tutto questo fa capo non soltanto all'istigazione a delinquere, ma a un'ideologia che contiene in sé come parte strutturale questi delitti, allora ecco che ha senso considerare la propaganda fascista come un problema che deve essere colpito. Dice Salvini, dicono i grillini, non si processano le idee, ma il problema è non solo le idee, il problema è se certe idee che abbiamo eretto a simbolo di tutto ciò che è negazione della democrazia, certe idee sono gridate, divulgate, divengono di fatto istigazione antidemocratica. La democrazia non è qualcosa di buono e di naturale, la democrazia si è affermata attraverso lotte, si è affermata attraverso la rivoluzione francese, si è affermata attraverso decenni di lotte nel risorgimento e poi si è affermata nel XX secolo contro l'estremo attentato contro la democrazia che è stato il fascismo. La democrazia è un equilibrio dinamico, fragile, che va tutelato e conservato, che va continuamente costruito. La democrazia è educazione democratica e educare significa decidere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, capire perché ciò che è giusto, capire ciò che è sbagliato, ma va fatto con forza, così come la democrazia è un patto tra cittadini che scelgono di riconoscersi come uguali. Chi entra in questo patto a gamba tesa dicendo io ci sono, ma non sono uguale agli altri, sono superiore perché i tossici sono esseri spregevoli, perché gli ebrei sono esseri spregevoli, perché gli omosessuali sono esseri spregevoli e inferiori, ecco che io non sono più nel patto, sono fuori dal patto democratico. Se io attento al patto democratico con la proposta di comportamenti conseguenti, siano essi pestaggi di massa, siano essi addirittura lo sterminio, commetto un reato di istigazione gravissimo. Aggiungo una considerazione, che questa idea di fascismo che viene propagandata, si dice che oggi non ha più senso perché il fascismo è stato storicamente sconfitto, c'è chi dice sapientemente che il fascismo è stato un grande progetto politico che ha avuto fortuna nella prima metà del secolo scorso, ma che ormai è sconfitto, che questo è soltanto folklore. Bene, io non credo che questo sia soltanto folklore, perché l'istigazione a delinquere non è folklore. Non c'è dubbio che i fascisti di oggi non hanno più il grande disegno progettuale che avevano negli anni 20 del secolo scorso. Però tutti questi frammenti di ideologia fascista che questi diversi gruppi, questi diversi soggetti, questi diversi siti internet, queste diverse voci propagandano, contengono in sé gran parte degli ingredienti di quel fascismo storico che abbiamo conosciuto, misurato e che abbiamo fortemente sofferto come società europea. Anche perché la particolare insidia di questa propaganda fascista sta nel fatto che essa conosce una nuova efficacia in questa stagione storica. In una stagione storica di grande incertezza, in particolare dell'Occidente, di grande incertezza nei confronti della globalizzazione, di grande senso della precarietà, di grande senso di impotenza verso nuovi poteri forti, la grande finanza internazionale, queste cose che ci raccontiamo continuamente. Di fronte a tutto questo, il fascismo offre risposte semplici, fortemente seduttive. Quindi rischia, attraverso la propria semplificazione violenta, trovare dei nemici da additare immediatamente e da colpire per le vie brevi. Questa propaganda ha una sua grande efficacia che può essere pericolosissima. Tra l'altro, questa propaganda, sappiamo, non riguarda soltanto l'Europa, il Medio Oriente. Le ideologie jihadiste del fondamentalismo islamico molto spesso sono più fasciste che religiose, come sappiamo. Non è un caso che il libro più venduto in internet in Medio Oriente non è il Corano, ma è il Mein Kampf di Hitler. La legge Scelba non bastava da un lato, e dall'altro, visto, come dire, anche come è fatto internet, non c'è il rischio che poi si faccia una legge ma non si abbia gli strumenti per contrastare, per fare i controlli, per appunto punire chi è responsabile? Dunque, la legge Scelba è una legge che colpiva l'apologia. Colpiva l'apologia perché si era in un'epoca, la legge Scelba è del 1953, nella quale nessuno avrebbe mai potuto immaginare che ci fosse una propaganda fascista dopo l'affermazione della democrazia. Poteva esserci una apologia di fascismo che comunque era ritenuta dal punto di vista simbolico estremamente grave. Oggi come si fa a colpire? E certo, è difficile colpire questi siti, è difficile colpire questa propaganda perché trafila dappertutto, perché internet è un mare magno difficilmente controllabile. E tuttavia è importante dal punto di vista qualitativo. Intanto è la dimostrazione di una scelta: rifiutare fino al punto di perseguire un certo tipo di propaganda. Poi si farà quello che si può, ma intanto l'affermazione di principio credo che abbia un senso.